troppi sbaglioni spastici con il mio intelletto. La domanda è che mi pongo, cosa al posto del cervello? Neuroni in lotta con l'incudine del martello. La mia psiche esaurisce ma consapevole di quello. Non ho chiaro il concetto di umanità. Essere umani non è essere al centro della società, bisognosa di una mano. E dici che non ci sarai, fatto pugni con un muro in fase di invalidità. Ho la scatola cranica che è in fusione totale. Io scrivo per lo schifo invece chi per il palmare. La causa del mio male è essere lo stato mentale. Vivo di antidepressivi e sta cosa non è normale. Dici che mi capisci, che ti metti nei miei panni. Pensa io neuroni che fanno festa ogni 3 anni. C'è chi vive per la macchina e lavora in poltrona. Io non vivo, parlo alla mia mente che non funziona. Ma lascia stare se è un problema, io mi arrangio. Poi resta a casa pensierosa, a pranzo manco mangio. I miei pensieri sono cibo perché io resto l'avanzo. Mentre di fuori c'è chi se la spassa da ganso. Un acido strano di fatto roba da chimico. Associa il malore psichico insieme a quello fisico. La mia sostanza grigia diventa roba solubile. Non dirmi che mi capisci, sarebbe una cosa impossibile. Resto solo col pensiero sempre più eterogeneo. Immaginazione colorata prende il volo come un aereo che plana su minuscoli mari, monti, fiumi. In un contesto sempre più allarmante di continui barlumi, di speranza repressa da ombre nere. Lanciando attacchi al subconscio non distingo più le affermazioni, come iniziato finisce. Vedo tutto blu, imprendo lo spavento, chiudi gli occhi e schizzo in su. Finalmente libero, ma i piedi la tocco nel suolo. Comincio la strada, faticosa perché non volo. Non riesco più, anche se la voglia è smaniosa. Passo dopo passo, la voglia di una scorciatoia è insidiosa. Ma non voglio, è sbagliato farlo, solo pensarlo. Ma come evitarlo se continua a vivermi sempre in testa? Prova a chiedere aiuto e viene, ma se ne va l'idea resta. Ma perché queste scene? Ora è l'odio che riempie le vene. Come disse Lennon, vorrei morire ubriaco per vomitare dinanzi ai cancelli dell'arcano. Troppi inutili morti con un foro nello sterno. Ormai troppi non arrivano al loro inverno. Un cerchio alchemico che cerca d'affiorare dalle tenebre oscure ghiacciate come la grotta polare. In cerca di calore che lo possa riscaldare, ma non riuscirà perché è gelato la paura, ma mi accade.